Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo circa 15-20 minuti che mi sembrano interminabili, capisco di essermi allontanato parecchio dalla spiaggia. Sono in affanno. Le onde continuano a tirarmi sotto. E quei pochi secondi in mezzo all'acqua impazzita che mi frulla il corpo come se fossi in una lavatrice sono sempre più difficili da gestire. Sono Carlo, ho 47 anni, vivo a Busto Arsizio e faccio il medico e sono sposato con Katia e ho uno splendido piccolo bambino di 3 anni e mezzo che si chiama Enrico. Quando parliamo di essere risucchiati, di solito ci immaginiamo sempre un vortice. E il termine vortice, fuori di metafora e dentro la metafora, ha a che fare con qualcosa che ti prende e ti travolge. Che sia un'onda che ti porta via, che sia un riflusso d'acqua, un mulinello, così li chiamavamo dalle mie parti, del fiume che ti tira sotto, oppure che sia una passione travolgente, appunto, che ti prende, ti risucchia nel vortice, no? Il vortice della passione. Tutto quello che in qualche modo ci assorbe a tal punto da travolgerci e risucchiarci ha a che fare con il vortice. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui. Oggi raccontiamo la storia di Carlo. Ogni giorno una storia diversa, ogni giorno una persona diversa. Se avete voglia di partecipare, se avete voglia di mandare la vostra storia, voi siete qui, @radio24.it. Chiediamo una cosa molto semplice, ma anche molto complicata. Un episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi. Carlo ha scelto un episodio e fuori onda prima della diretta mi diceva che di fatto non aveva mai scritto nulla se non report scientifici. È un medico e quindi è un ricercatore clinico e non aveva mai scritto nulla. Ascoltando il programma gli è venuta voglia di raccontare qualcosa e ha scelto questo episodio qua perché in qualche modo lo rappresenta, perché parla di un uomo che fa sport, di un uomo che ama divertirsi, che ama l'acqua e che in questo caso è stato letteralmente risucchiato da quello che lui chiama una corrente. Aspetta che cerco esattamente, una corrente di risacca. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook dove già la gente ha scritto Voi siete qui, Radio 24. Sergio dice: mi ha risucchiato il lavoro. L'ho fatto in un modo sorprendente, perché sono sempre stato uno di quelli che considerava la vita come una somma di cose che ha a che fare con la qualità. Ora invece lavoro 13 ore al giorno, vedo poco mia moglie e mio figlio e aspetto che accada qualcosa per farmi smettere. Sergio, non aspettare che accada nulla, fai qualcosa, tu ti prego. Antonella, mi ha risucchiata la passione per l'arrampicata. Ho iniziato 2 estati fa in Trentino, giusto per passare un pomeriggio estivo, e non mi sono più fermata. 3 giorni a settimana frequento la parete della palestra della mia città, immagino quindi indoor al coperto, e ai primi soli mi arrampico sulla falese di mezzo Piemonte. 349-238-6666. Salvo, ho iniziato a vedere Homeland, una serie americana, e sto impazzendo dallo streaming. Non so se si può dire streaming in diretta. Si può dire streaming? È stato risucchiato dalle serie americane. Effettivamente le serie televisive americane fanno queste effetto qua, ti prendono quando funzionano, e purtroppo maledette funzionano quasi sempre, ti risucchiano. 349-238-6666, questa è la storia di un risucchio vero, è la storia di Carlo. Sono stanco, avevo proprio bisogno di questo bagno caldo. L'idromassaggio con il suo continuo ribollire d'acqua mi aiuta a rilassarmi e mi chiedo perché mai lo usiamo così poco. Da quando l'abbiamo preso, o meglio trovato, in questa casa che abitiamo da 4 anni, l'avremmo usato sì e no 10 di volte. Ora mi sento davvero bene. Questo rumore mi fa pensare ai bagni in mare da piccolo, ai giri in moscone, alle estenuanti attese del bagno dopo il pranzo, ai primi tuffi, ai primi goffi tentativi di esplorare il fondale con maschere troppo grande per i nostri piccoli volti. Per non parlare della focaccia salata e dell'asciugamano caldo uscendo dall'acqua. Mi torna in mente anche un episodio a cui non pensavo più da moltissimi anni. Ero in vacanza al mare con i genitori e i nonni e quel giorno passeggiavo sulla battigia con mio nonno in una giornata di mare agitato. A un certo punto ci fermammo a osservare un drappello di persone che concitate circondavano una donna che stavano tentando di rianimare. Mio nonno mi condusse via rapidamente per poi precipitarsi indietro dopo aver scoperto che quella donna, salvata appena in tempo da un annegamento, era sua moglie. È strano, tutti pensarono ad un malore perché lei era un'ottima nuotatrice e non rinunciava mai a un bagno tra i cavalloni. A quei tempi era ancora giovane, probabilmente aveva qualcosa meno di 50 anni, ed era in ottima forma fisica, visto che il nuoto era la sua passione. Quella volta però ci disse che mentre rientrava a riva, aveva sentito mancargli la sabbia sotto i piedi, ed era stata risucchiata nei flutti. E poi non ricordava più niente, se non il rumore dell'acqua. Ho questo ricordo di essere con mio nonno a camminare sulla battigia, e poi mi ricordo questo, a me sembrava un grandissimo numero di persone che si erano radunate in riva alla spiaggia, e questo è il ricordo che ho. E poi mi ricordo anche del fatto che mio nonno mi ha lasciato per correre velocemente verso quel gruppo di persone, e solo dopo ho capito che chi c'era, che stavano soccorrendo, era mio nonno. Sollevo il capo e apro lentamente gli occhi. Cosa ci fa tutta questa gente che mi guarda e si agita? E perché Katia, mia moglie, ha uno sguardo così angosciato? Lentamente capisco dove sono. Non nella mia vasca idromassaggio. Sono su una spiaggia della Sardegna. È agosto il 2012 e sono in ferie, ma il mare non è azzurro come ce lo si immagina. È marrone scuro, solcato da grandi onde. C'è vento teso. Ed era una settimana che lo aspettavo. Sono andato lì proprio per cercare queste condizioni che inaspettatamente sono arrivate solo oggi, grazie a un forte scirocco di 25 nodi che alza una bella onda formata di 2 metri, che frange a circa 200 metri dalla riva. Alle 9 ero già in postazione. La sgargiante ala bianca e azzurra del mio kitesurf è appoggiata sulla spiaggia e freme incessantemente, scossa dal vento, quasi a incitarmi a partire. Giusto il tempo di indossare l'attrezzatura e di fare un cenno di saluto a mia moglie e mio figlio che mi stanno raggiungendo. Li riconosco a malapena. Sono lontani sulla spiaggia e la loro immagine sfocata dal caldo e dalla sabbia sollevata dal vento mi ricordano un miraggio. È il segnale. Posso finalmente lanciarmi in acqua. La tavola scivola veloce. Le onde facilitano salti e rotazioni spettacolari. È la magia del kitesurf, che si rinnova ad ogni uscita. Puro godimento per un paio d'ore. Ora però sono stanco, rientro. Ad accogliermi a riva ci sono Katia ed Enrico, che ha solo 2 anni e mezzo, ma già stravede per il kite. Buon sangue, non mente. Sono stanco, ma ho voglia di stare con lui sul bagnasciuga, a rincorrere la schiuma delle onde più grandi. Guardando bene la superficie del mare, tra i frangenti più alti c'è una zona di acqua quasi piatta. Mi viene voglia di tuffarmi lì. Katia ed Enrico mi vedono in poche bracciate passare da quel varco tra le onde. Ecco, ci sono, ora mi trovo in mezzo a moltissimi surfisti che si sbracciano per dirmi di andarmene. Inizialmente penso che lo facciano perché do loro fastidio, poi però capisco che mi vogliono solo avvertire di un pericolo. E subito realizzo che c'è qualcosa che non va. Ho fatto poche bracciate e sono ormai molto lontano dalla riva, proprio dove frangono le onde. Inizio a cercare di tornare indietro, ma non è facile. Avanzo per una decina di metri, ma ad ogni onda che mi supera, torno al punto di partenza. Le onde sono alte, mi frangono sul capo tenendomi sotto per qualche secondo. Pur non avendo paura, non sono sereno perché capisco che la situazione non è sotto controllo. Dopo circa 15-20 minuti che mi sembrano interminabili, capisco di essermi allontanato parecchio dal punto di partenza. Sono in affanno. Le onde continuano a tirarmi sotto e quei pochi secondi in mezzo all'acqua impazzita che mi frulla il corpo come se fossi in una lavatrice sono sempre più difficili da gestire, anche perché accresce l'ansia per non riuscire a capire come venirne fuori da questa situazione. Ora poi non ho nessuno vicino e la riva è lontana, sono solo e certo sono in pericolo. Dato che non riesco più a dominare il movimento delle onde, i miei sforzi sono tutti tesi a non bere, e già questo non è semplice. La corrente mi trascina indietro, ma anche verso destra, dove si intravedono le boe che delimitano il termine della corsia di uscita per i kite e windsurf. A breve sarò lì, e so che lì c'è una cima che collega questa boa con la riva. Mi chiedo se ce la farò a prenderla, se riuscirò con l'aiuto della cima a rientrare a riva. Il mio progetto fortunatamente riesce e con grande lentezza e fatica recupero la spiaggia. Nessuno sembra essersi accorto di quanto stava avvenendo. Mia moglie però aveva capito qualcosa solo negli ultimi momenti e agitata scrutava il mare nel tentativo di trovare la mia maglia di licra rossa tra i flutti. I miei ricordi si fermano a pochi metri dalla battigia, quando ormai sento la sabbia sotto i miei piedi. Probabilmente poco dopo le energie ormai finite e il calo della tensione mi hanno fatto crollare sulla sabbia e sprofondare nel sogno della vasca da bagno, ritrovando ricordi infantili ormai sopiti. Quando sono arrivato in spiaggia mi si fermano praticamente i ricordi. Io non ho molti ricordi perché dopo che io sono arrivato in spiaggia ricordo di aver provato un senso di liberazione quando riuscivo a raggiungere la spiaggia, e poi dopodiché io ero talmente stanco che mi sono praticamente quasi addormentato, sdraiato, quindi ho perso un po' il senso e da lì è iniziato quel ricordo strano che mi ha riportato indietro a quell'evento della mia infanzia e di mia nonna. Il giorno successivo ho cercato di capire che cosa fosse successo e in pochi minuti, grazie a internet, ho compreso di essere stato vittima di una forte corrente di risacca. Si tratta di un intenso flusso d'acqua causato dal moto ondoso del mare che si forma davanti alla spiaggia. L'accumulo d'acqua lungo la costa provoca un aumento di pressione che deve essere compensato da un flusso di ritorno che si dirige dalla riva verso il largo ad elevata velocità, trascinando con sé tutto ciò che incontra. Tali correnti si creano prevalentemente negli specchi di mare davanti alle spiagge sabbiose, soprattutto quando sono delimitate da promontori rocciosi, formando spesso dei canaloni sul fondale che rendono ancora più pericoloso il loro manifestarsi. Si viene risucchiati e trascinati senza tregua verso il largo. La loro elevata velocità rende difficile mettersi in salvo anche ai nuotatori più esperti. Guardando la superficie dell'acqua si può intuire l'esistenza di una corrente diretta verso il largo nei punti in cui la superficie dell'acqua è insolitamente liscia e ondulata, e in tale punto le onde sono come spezzate. Mi chiedo se non si sia trattato dello stesso fenomeno di cui rimase vittima mia nonna tanti anni fa. Di fatto probabilmente entrambi ci siamo gettati volontariamente nel punto più pericoloso, scambiando la zona senza onde per un'area più sicura. La storia spesso si ripete e anche questa volta, fortunatamente, a lieto fine. Save my soul. 349-238-6666, lo dicevo anche prima di leggere la storia di Carlo, ne parlavamo con Tiziano del fatto che praticamente le storie di lotta con il mare ai limiti dell'annegamento sono quasi diventato un capitolo a sé di questo programma. È la terza che raccontiamo, ma ne sono arrivate diverse di storie di persone che sono risucchiate dal mare o dall'eccessivo desiderio di farne parte. È il caso di Carlo che di fatto non è una storia semplice, non è una storia normale, perché quello che è successo a lui pare sia successo esattamente allo stesso modo a sua nonna anni prima. Pronto Carlo? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento io sono in ospedale, sto lavorando come sempre, sono un medico. Che medico sei esattamente? È un medico che non fa un lavoro tanto piacevole, sono un oncologo. Ah. Purtroppo mi occupo della cura dei tumori, sì. E quindi scusami, sei operi anche in quanto oncologo? O no, anche... no, io sono un oncologo medico, sono quello che diciamo prescrive le terapie. Le segue, prescrive i controlli, insomma, imposta magari i percorsi di diagnosi e di cura dei pazienti. Scusami, questa è chiaramente, lo so, una domanda che ti fanno sempre tutti, immagino, ed è una domanda banale. Riesci a lasciare il lavoro al lavoro e tornare a casa e non pensarci? Hai sviluppato un metodo per evitare, guarda, di portarti via le cose? Io sono 20 anni che faccio questo lavoro e incredibilmente quello che mi sta succedendo è che purtroppo faccio sempre più fatica a fare questo, perché effettivamente forse col passare degli anni diventa sempre più difficile non immedesimarsi tante volte nelle storie molto difficili che, con cui si ha a che fare quasi quotidianamente. Comunque evidentemente la casa e lo sport sono un qualcosa che per me è di fondamentale importanza per riuscire davvero a recuperare un pochettino l'energia, a staccare la testa da una immagine che oggettivamente è davvero è molto complicato. Tu fumi, Carlo? Assolutamente no, dai, perché, non potrei. No, te lo domando perché la cosa che noto quando vado in ospedale è che i medici, ma forse i chirurghi, è che un modo per scaricare è quello di fumare. Moltissimi medici fumano. Ma è abbastanza vero, però io come oncologo sarebbe davvero un po'. Non ce la fai proprio. Meglio così. Senti, andiamo allo sport. Allora, andiamo al kitesurf. Da quant'è che lo fai? Sono adesso 3 anni che lo faccio in maniera abbastanza continuativa. Ma mi ricordi quanti anni hai, Carlo? Scusami. Io ho 47 anni. 47 anni, quindi hai un lavoro di preparazione, hai un allenamento particolare, perché il kitesurf è abbastanza tosto. No, guarda, no? Allora, a parte che dipende sempre da quello che tu vuoi fare, nel senso che io lo faccio ad un livello abbastanza base, ecco. Non è uno sport particolarmente fisico, particolarmente faticoso. Al confronto il windsurf è enormemente più impegnativo. C'è da dire che io di sport ne faccio abbastanza, cerco di farne abbastanza, quindi alla fine parto già da una base, diciamo, accettabile, insomma. Okay. Quindi alla fine e poi sono abituato ad avere una discreta acquaticità, perché faccio un po' di sport anche di acqua, poi scio, vado windsurf, insomma. Sì, cerchi di muoverti il più possibile. Okay. E quindi alla fine è un po' più facile, ecco, diciamo, praticare sport quanto ne fai anche un po' di acqua. Chiaro, chiaro. Però non è col kitesurf che tu ti metti nei guai in questa storia, ma è nuotando. No, no. Incredibilmente no, perché era una giornata dove c'erano tutte le condizioni per mettersi nei guai con il kite, e invece incredibilmente, per stare così vicino a mio figlio e giocare un po' nell'acqua così, mi sono trovato in una situazione davvero davvero strana, davvero difficile. Ecco, a questo proposito, scusa, questa corrente di risacca che tu spieghi benissimo, no? Cioè praticamente c'è un ammasso d'acqua perché le onde spingono sulla sabbia e deve essere scaricata, e quindi ci sono queste specie di torrenti che subacquei, giusto? Che ritornano verso il largo. Certo, ma anche superficiali, tu vedi bene l'acqua. Io l'ho capito davvero tutto, purtroppo tardi, a posteriori, l'ho capito dopo, studiando un po' l'argomento e scoprendo anche, parlando con un po' di gente che fa surf da onda, proprio, che questi li chiamano i lift, sono proprio le zone in cui l'acqua si reincanala per uscire verso il largo, e quindi li utilizzano proprio come metodo per raggiungere rapidamente il largo e arrivare proprio nel punto dove frangono le onde. Ok, purtroppo, quindi loro che loro sfruttano questa corrente che li porta fuori per poi rientrare e fare surf. In quel caso, esatto, tu stai nuotando, in realtà non stai nemmeno nuotando, cioè ci ritrovi. Mi ci ritrovo dentro, perché vedevo le onde che frangevano in questa zona dove l'acqua era relativamente più piatta. Io mi sono avvicinato lì, ho fatto 2 bracciate e in un attimo mi sono trovato veramente distante da riva, ma soprattutto nel punto in cui le onde frangono sopra di te. Quindi ero in questa situazione abbastanza difficile, perché non riuscivo a allontanarmi, l'acqua continuava a tenermi fermo in questa posizione e per di più dove frangevano delle onde abbastanza alte. Tu tra l'altro, lo si evince dal racconto, riesci a mantenere la calma più o meno, no? Cioè capisci che c'è qualcosa che non va, però cominci dopo 20 minuti, sono un tempo enorme in acqua. Guarda, 20 minuti. Io non riesco a stimare il tempo preciso che è trascorso, perché sai che in quei momenti, anche il tempo, momenti di difficoltà, il tempo passa molto più rapidamente, quindi non so onestamente quanto sia stato il tempo. Io ipotizzo 15-20 minuti, perché mi ricordo di aver fatto vari tentativi per venire fuori da questa situazione, e penso orientativamente che il tutto sia durato un 15-20 minuti. In questi 15-20 minuti hai mai avuto la sensazione, ti sei mai detto: guarda, per una vaccata, guarda come sta andando a finire? Guarda, in quel momento ero concentratissimo, non spaventato, fortunatamente, sapevo che di essere perfettamente in una situazione di pericolo, però riuscivo a ragionare bene, non mi sono fatto prendere, okay, fortunatamente, dal panico. Quindi la cima che delimitava il percorso di uscita con le boe è stata davvero fatalmente provvidenziale. Io non so so come avrei fatto veramente senza quello venire fuori da quella situazione, anche perché allontanandomi un po' dalla zona dove ero arrivato all'inizio non c'era veramente nessuno intorno, e anche da terra, nonostante ci fosse parecchio tempo, non mi vedevano, certo. Anche mia moglie, che stava cercando di capire dove fossi venuto, e poi avevo su una maglia rossa, una licra rossa che si vede molto bene, non riuscivano perché le onde erano molto grosse, quindi sai, la spiaggia non era piccolissima, e quindi è difficile in generale vedere un uomo in mare se c'è tanto così d'onda, una testa insomma non la vedi più. Carlo, io ti devo salutare che devo mandare la borsa, ti ringrazio tantissimo per la storia e per la chiacchierata. Dove vai quest'estate? Quest'estate non ho ancora deciso, ma io seguo sempre un pochettino, ho un camper e quindi seguo un pochettino il vento, in genere mi muovo un po' tra Sardegna, Toscana, un pochettino anche in funzione proprio dell'andamento meteorologico. Carlo, ti lascio tornare al lavoro perché ti sono in ospedale, grazie ancora e in bocca al lupo per tutto. Grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ciao. Voi siete qui. Sono al mare, cioè è al mare tutta la famiglia di Carlo nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio24, la nostra pagina. Voi siete qui. Sono lui, sua moglie o compagna, non ricordo più se sono sposati, Katia, mi pare di ricordare, e il loro bimbo, di cui invece adesso mi sfugge il nome, ma che è biondissimo. Sapete proprio quei bambini biondi che sono biondi, che dici, i bambini sono tutti biondi all'inizio, che poi non è vero che sono tutti biondi, lui è proprio biondissimissimo, ha gli occhi azzurri e una specie di pigiamino. Sono davanti al mare, sapete proprio le foto che si fa al tramonto, il mare, sono lì, è tutto rosso alle loro spalle e loro sembrano veramente felici. Corrente, sostantivo femminile, massa d'acqua in movimento lungo un determinato percorso. Corrente marina, spostamento permanente di una massa liquida marina in una data direzione dovuta o all'azione del vento o a differenza di temperatura, di salinità, di livello tra masse d'acqua contigue. Estensivo, massa d'aria in movimento. Atteggiamento ideologico o pratico condiviso con alcuni in contrasto con altri. In fisica, corrente elettrica, flusso ordinato di cariche in un conduttore tra punti a potenziale elettrico differente. Etimo, participio presente di correre. Data, secolo XIV. 3492386666 Stefano mi scrive a proposito di vortici reali, no? E di rischi di affogamento, visto che di quello si parlava grazie al racconto di Carlo e con lui. Mi ha risucchiato, scrive Stefano, il vortice del fiume Ticino. Esattamente il fiume a cui pensavo prima quando parlavo di Mulinelli. L'estate di tanti anni fa. Sono qui a raccontarlo solo perché qualcuno mi ha tirato fuori di peso dall'acqua. Ricordo solo i primi giri nel vortice che mi portava giù e in un attimo persi il senso dell'orientamento e persi conoscenza. È un ricordo terribile e splendido al contempo. Cioè, Stefano, immagino che sia orribile quando vieni risucchiato e splendido quando vieni ripreso per i capelli, però così a naso, immagino. Giorgio mi ha risucchiato questa orribile situazione politica. Ho creduto nella politica per anni, ora però questo vortice di crisi economica e culturale mi sta moralmente tirando giù in un abisso insopportabile. Giorgio, stai su, per piacere. E poi eccolo qua il messaggio che aspettavo ed è arrivato puntualissimo. Alessandro: mi ha risucchiato Chiara, che ho conosciuto ieri sera in un locale, non riesco a pensare ad altro che a lei. Ti prego, Matteo, aiutami! Ale92. Allora, Ale, innanzitutto, sono la persona meno adatta per aiutarti, nel senso che non saprei cosa dirti. Ale92, quindi hai 92, è un ragazzino, 92, hai 22, 20, 21 anni, hai 21 anni. Non so cosa devo dire ad Alessandro. Chiama Chiara, trova il modo, cercala, oppure passa oltre. E i consigli di Matteo Caccia sui sentimenti, ragazzi, tutti i giorni in diretta a Radio 24. Pietro: mi ha risucchiato la passione per David Foster Wallace. Ho iniziato a leggere una cosa divertente che non farò mai più perché ne avevate parlato voi. Oh, queste sono soddisfazioni enormi, ti ringrazio Pietro. E ora sono completamente impazzito, da La scopa del sistema alla ragazza dei capelli strani, passando per Infinite Jest. Non riesco più a farne a meno. Giustamente Tiziano Bolini dice: non ci credo che hai letto Infinite Jest. A me pare di capire che Pietro dica passando per Infinite Jest, quindi sarà tipo, fa vedere, mazza quante pagine, che è un po' più o meno l'approccio che hanno tutti con più che più che con Wallace, con Infinite Jest, direi. Visto che si parla di scrittori e visto che si parla di un argomento che è quello appunto di essere risucchiati, per quanto possa sembrare macabro, io quando ho letto la storia di Carlo, che è anche ambientata in Sardegna, mi è venuta in mente la storia di questo scrittore sardo che è mancato proprio in una situazione come quella, è affogato giovanissimo a 43 anni nelle acque della Sardegna, per esattezza nelle acque di Carloforte, per colpa pare di un'onda. Si chiama Sergio Azzeni. Sergio Azzeni è purtroppo poco conosciuto ed è mancato purtroppo troppo presto, appunto aveva 43 anni, aveva scritto non aveva scritto tantissimo, aveva scritto delle cose soprattutto di carattere giornalistico, perché aveva cominciato facendo il giornalista e poi Sergio Azzeni aveva cominciato a scrivere della Sardegna in sostanza, o meglio romanzi ambientati in Sardegna legati alla storia della Sardegna, Il figlio di Bakunin, Il quinto passo è l'addio, che è un libro bellissimo, e in particolar modo Sergio Azzeni è conosciuto per un libro che si intitola Passavamo sulla terra leggeri, che è un romanzo postumo e che rievoca di fatto la storia del popolo sardo come se fosse raccontato in prima persona. È un romanzo meraviglioso che, da cui è stato preso anche il titolo per un festival sardo che è molto interessante, che stiene d'estate. Il pezzo che voglio leggervi parla di felicità e parla di questo concetto di passare sulla terra leggeri. Non so definire la parola felicità, ovvero non so che sia la felicità. Credo di aver sperimentato momenti di gioia intensa, da battermi i pugni sul petto, al sole, alla pioggia o al coperto, urlando. A volte vorrei farlo e non si può, sarebbe giudicato segno di disturbo mentale. O da credere di camminare sulle nuvole, o da sentire l'anima farsi leggera e volare alta fino a Dio. È capitato di rado. È la felicità? Così breve? Così poca? Se esiste una parola per dire i sentimenti dei sardi nei millenni di isolamento fra nuraghe e bronzetti, forse è felicità. Passavamo sulla terra leggeri come acqua, disse Antonio Sezzu. Come acqua che scorre, salta giù dalla conca piena della fonte, scivola e serpeggia fra muschi e felci, fino alle radici delle sughere e dei mandorli. O scende scivolando sulle pietre, per i monti e i colli fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi e il mare, chiamata in vapore dal sole, a diventare nube dominata dai venti e pioggia benedetta. A parte la follia di ucciderci l'un l'altro per motivi irrilevanti, eravamo felici. Le piane e le paludi erano fertili, i monti ricchi di pascolo e fonti. Il cibo non mancava neppure negli anni di carestia. Facevamo un vino colore del sangue, dolce al palato e portatore di sogni allegri. Nel settimo giorno del mese del vento, quello che piega le querce, incontravamo tutte le genti attorno alla fonte sacra. E per 7 giorni e 7 notti mangiavamo, bevevamo, cantavamo e danzavamo in onore di Is. Cantare, suonare, danzare, coltivare, raccogliere, mungere, intagliare, fondere, uccidere, morire, cantare, suonare, danzare, era la nostra vita. Eravamo felici, a parte la follia di ucciderci l'un l'altro per motivi irrilevanti. I had done wrong. You built your tower, but called me home. And I will build a throne and wash my eyes out never again. With skin too tight and eyes like marble. Vi ripeto il titolo preciso, il titolo di questo libro è Passavamo sulla terra leggeri, l'autore è Sergio Azzeni e l'editore è un piccolo editore sardo, immagino che si chiama Ilisso. Grazie a tutti quelli che hanno fatto sì che anche questa puntata andasse in onda, in particolar modo Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Grazie però soprattutto a Carlo, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Carlo, sono di Bologna, ho ormai 53 anni, la storia di domani è la mia, parla di un déjà vu clamoroso, non me lo so spiegare ancora. Questa è la mia storia e io sono qui.